1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, cari ascoltatori, sono le 7:18 minuti. Ben ritrovati, amici debosciati miei. Dai, che mancano, quante ve ne detto, 17 sveglie all'alba per quel che mi riguarda e poi sono vacanze. Allora, oggi parleremo di che cosa? Torneremo a parlare dei rapporti tra noi e l'Islam, i musulmani. Sarà con noi Zedine Elzir, che è presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche Italiane. Avremo con noi, torna anche padre Samir Khalil Samir, gesuita, islamologo, uno dei più importanti al mondo. Parleremo anche di calcio, di questo calcio malato. Tanto andremo avanti fino alle 9:30, il nostro Carlo Genta, ma anche Marco Mensurati di Repubblica. Parleremo con loro. Sentite, ormai non c'è giorno senza uno scandalo nel calcio presunto, ovvero. Vi fidate ancora, amate ancora questo sport, che è lo sport più amato dagli italiani? Ne parleremo dalle 9. Ora i giornali. È mercoledì 1 luglio, il Sole 24 Ore apre su Atene, come quasi tutti i quotidiani. Atene non paga la rata al fondo monetario, si tratta sul terzo piano di aiuti. Il Corriere della Sera invece: l'Europa preme, ora Atene ha paura. Per Repubblica, Grecia, trattativa disperata. La Stampa: Grecia, Unione Europea, si va ai supplementari. Per Il Messaggero, spiraglio Grecia, gelo Merkel. Libero: ecco chi paga se la Grecia va KO. Il Fatto Quotidiano: Tsipras, noi non paghiamo, ma riprende a trattare con l'Unione Europea. E poi ancora Atene, eppur si tratta, questo è il titolo di Avvenire. Grecia, la Merkel dice no per Il Giorno, mentre roulette greca è il titolo del Manifesto. L'Unità invece apre sulla scuola. Riapre la scuola, entrano gli operai, 8.000 cantieri per un investimento di 4 miliardi di euro. E c'è l'anagrafe degli edifici, l'Unità, che sapete da ieri è tornata in edicola. Voglio però partire dall'apertura del giornale, che parla di una inchiesta di Fausto Biloslavo, ISIS, 10 indagati in Italia. La dicitura è abbastanza inquietante, i terroristi tra noi, questo è il titolo di prima pagina. Fausto Biloslavo racconta, pagina 3, dei 10 indagati in Italia nel mirino del clan di Lady Jihad, così è conosciuta. Si tratta di Maria Giulia Sergio, 27 anni, che ora è partita e fa la jihadista in Siria, dicendo «voglio morire come una martire». Maria Giulia Sergio, la Lady Jihad italiana arruolata nello Stato Islamico, annuncia dalla Siria che la battaglia finale contro i miscredenti sarà la conquista di Roma. Suo marito, Aldo Kobuzi, di origine albanese, combatte da Mujahed e taglia le mani ai ladri. Marianna, la sorella di Maria Giulia, vuol raggiungerla in Siria insieme a mamma e papà. La famiglia albanese di Lady Jihad, che vive a Scansano, in provincia di Grosseto, ha aiutato gli sposi della Guerra Santa a raggiungere il califfato. Sono 10 persone coinvolte in questa storia, indagate dalla Procura di Milano, che sta tirando le somme dell'inchiesta grazie al minuzioso lavoro della Digos. Nel mirino è finita questa allegra rete familiare della Guerra Santa, così la definisce Biloslavo, che fra Inzago, in provincia di Milano, e la Maremma è coinvolta nella scelta radicale di Maria Giulia Sergio, 27 anni, originaria di Torre del Greco, convertita all'Islam, scelta di raggiungere il califfato. E dal nord della Siria, dove si trova, sostiene che i Mujahideen marceranno prima sulla Turchia, poi in Arabia Saudita. Alla fine, inshallah, a Roma ci sarà una grande battaglia. Ora si parte da qui, sarà una fanatica, non sarà una fanatica, sarà con un seguito, non sarà con un seguito. Certo, scrive il giornale, c'è un'inchiesta della Procura di Milano su questa rete, 10 indagati, il cosiddetto clan di Lady Jihad. Beh, veniamo, tanto approfondiremo poi dalle 8:15. Veniamo alla questione più italiana, l'economia, le notizie. Beh, mi ha colpito quello che è successo in Friuli Venezia Giulia, dove Non molti giornali mettono in risalto quella che invece secondo me è una cosa meritevole di essere messa in risalto, come fanno Il Manifesto e Il Fatto Quotidiano. Il Manifesto lo fa a pagina 8 con Ernesto Milanesi, racconta questo: reddito minimo alla friulana. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato una norma che stanzia 550 euro al mese per non più di 2 anni ed è la prima regione a sperimentarlo grazie al voto del PD, di Sinistra e Libertà e del Movimento 5 Stelle, che hanno appoggiato questa riforma. Reddito minimo garantito di sostegno, ognuno lo aggettiva a piacere, tuttavia il Friuli Venezia Giulia è la prima regione d'Italia a garantire reddito vero nell'epoca della grande crisi. 550 euro al mese per un massimo di 2 anni, lo ha deciso il Consiglio regionale con una maggioranza significativa a favore in 27 e dunque approvato. La governatrice Deborah Serracchiani, che è anche la vice segretaria del PD di Renzi, aveva inutilmente auspicato l'abbattimento di steccati, dicendo: non ci sono bandierine da mettere, ci sono temi su cui nessuno può aggiungere i suoi colori politici, ci sono famiglie per le quali 180 euro al mese fanno la differenza. Questa comunque è la scelta, fissati i requisiti anche per ottenere questi 550 euro al mese. Tanto per cominciare occorre un reddito certificato ISEE inferiore ai 6.000 euro l'anno. Poi l'assegno è stato legato a filo doppio al patto che prevede formazione, ricerca lavoro e attività socialmente utili. Include anche i pensionati, questo patto, che sono stati messi in ginocchio dalla recessione. E il Movimento 5 Stelle ha fatto poi scattare il vincolo tra reddito minimo e frequenza scolastica, cioè se in famiglia si verifica un abbandono scolastico, cessa l'aiuto economico. Infine occorre ovviamente una residenza di almeno 2 anni in Friuli Venezia Giulia. Insomma, il Friuli Venezia Giulia lo ha fatto. Il Fatto Quotidiano lo mette a pagina 7. Il reddito minimo imbarazza Serracchiani. Questa è la lettura del Fatto con Paola Zanca. Perché? È vero che PD, SEL, quindi anche il PD della Serracchiani, votano il bonus, chiamiamolo, qui viene chiamato bonus, nella regione governata dalla vice segretaria del PD, ma secondo il Fatto Quotidiano la stessa Serracchiani ultimamente ne aveva parlato poco, forse perché a livello nazionale, essendo vice segretaria del PD, poteva imbarazzare questa vicenda. Questa vicenda della propria regione. Comunque il dato di fatto è che sul Manifesto e su Il Fatto Quotidiano è data notizia giustamente di questo reddito. Ho invece imbarazzo non molto, un po' lo ha manifestato, ma non tanto, dicendo: non è stata colpa mia, Gianna Nannini ha patteggiato con il fisco, era accusata di aver evaso 3,7 milioni di euro. Ha patteggiato 14 mesi di pena con sospensione condizionale e non menzione nel certificato penale. Il giudice per udienza preliminare ha dato il via libera a tutto ciò. Nannini era accusata di aver sottratto al fisco tra il 2007 e il 2012 le royalties dei dischi e dei concerti, interponendo tra la propria società milanese e le case discografiche una società di diritto irlandese e una di diritto olandese prive di effettiva struttura. Leggo dall'articolo di Mario Consani a pagina 13 del Giorno. La Nannini risarcisce e patteggia, dice però: non è stata colpa mia. Attraverso il suo avvocato parla Gianna Nannini, amareggiata e sorpresa dalla vicenda, nel ribadire l'assoluta trasparenza della propria condotta, nega recisamente qualsiasi interposizione fittizia con società estere, sottolinea che gli addebiti sono riferibili esclusivamente all'operato di soggetti terzi nei quali nutriva una sconfinata e tuttavia mal riposta fiducia. L'avvocato è Giulia Bongiorno, difensore della Rockstar. Insomma, è la classica presunta evasione fiscale a propria insaputa. Aggiungere un po' alla lista anche Gianna Nannini. Va bene, ma siamo al momento dell'articolo che ci fa più sore di questa giornata. Se state guidando, le mani devono stare ben salde, ben strette sul volante. Mani sul volante, sempre e comunque. A maggior ragione mentre vi sto per leggere questo articolo. Se siete in treno, come ho detto, posizione come se fosse l'atterraggio di emergenza in aereo, eh? Testa reclinata in avanti tra le ginocchia, oppure tenetevi ai braccioli forti. I collaudi milionari del Mose, soldi pubblici a 130 consulenti. Il Corriere della Sera con Sergio Rizzo snocciola delle cifre spaventose a pagina 25 sui collaudi del Mose. Sapete quante sono state le persone collaudatori del Mose? 130, avete letto bene, 130. E se però queste si sommano, quanti per il medesimo consorzio Venezia hanno collaudato lavori lagunari minori collegati al Mose? Arriviamo a 316. Avete letto bene, 316 collaudatori per compensi totali di 19.818.524,76 euro, dei quali 14,2 milioni per il Mose e il resto per le opere in laguna. E poi, scrive Sergio Rizzo, ci sono delle domande. Perché nella lista dei collaudatori di una diga ci sono almeno 7 persone che sono state ai vertici dell'ANAS? L'ex amministratore Pietro Ciucci, accreditato di un compenso di 762.000 euro. Vincenzo Pozzi, 1.127.000 euro. Piero Buoncristiano, 562.000. Francesco Sabato, 394.000. Alfredo Baio, 244.000. Massimo Averardi, 242.000. Eutimio Mucilli, 223.000, senza contare l'architetto Mauro Coletta, 321.000, che all'ANAS si occupava di concessionare autostradali. E poi, seconda domanda, perché tra i collaudatori di un'opera pubblica sulla quale vigila quel ministero ci sono 36 dirigenti dello stesso ministero? Tutto legale, ma forse un piccolo conflitto di interessi potrebbe esserci. E via, si snocciolano anche qua i nomi dei collaudatori ministeriali: chi ha preso 250.000 euro, chi 260, 290, 400, 562.000 euro a Maria Pia Pallavicini. Tutto normale? Nella lista 7 ex manager ANAS, 36 dirigenti del ministero collaudatori per il Mose, per un totale di collaudatori di 316. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. È Alessandro Milan, bellezza. E tu non puoi farci niente. Niente. Niente, niente. Allora, Atene e la Grecia. Che sta succedendo? In realtà sotto sotto pare si stia trattando sì, no, ni, boh, forse. Atene chiede un terzo salvataggio, così Beda Romano racconta a pagina 3 del Sole 24 Ore. Il dato certo è che ieri Atene doveva restituire al Fondo Monetario Internazionale 1 miliardo e 560 milioni. Era la prima rata di 21 milioni che Atene, la Grecia, deve restituire al Fondo Monetario. Tsipras non lo ha fatto, non paghiamo. Con una scelta degna della partita poker che la Grecia e i suoi partner stanno giocando, il governo Tsipras ha scritto ieri ai rappresentanti dei creditori europei chiedendo un'estensione dell'attuale memorandum e un nuovo prestito di 2 anni a cui vengono associate una ristrutturazione e un alleggerimento del debito. Così Beda Romano racconta. L'Eurogruppo ha deciso di valutare la richiesta di prestito, ma ha rifiutato l'allungamento del programma economico. Come dire, non ci avete dato la prima rata ieri e chiedete nuovi soldi. Il presidente dell'Eurogruppo, Dijsselbloem, parlando ieri alla Reuters, ha spiegato che la richiesta di un nuovo prestito verrà valutata secondo le normali procedure. Certo, però si tratta per scongiurare quello che potrebbe essere il referendum che potrebbe terremotare, vedremo i risultati, in un senso o nell'altro, o il governo Tsipras o l'euro e l'Europa. Danilo Taino sul Corriere della Sera, pagina 3, racconta le vere condizioni per evitare il referendum. Ecco il pressing di Berlino. Scrive il Corriere: un ciclone si è rovesciato addosso a Tsipras e al governo al potere Atene. La scelta di chiamare Grecia un referendum sulla proposta del programma di aiuti avanzata dai creditori del paese ha esposto l'esecutivo di sinistra non a critiche generiche, ma a un'ondata di avvertimenti sulle conseguenze della decisione presa. Risultato? La mossa, si direbbe disperata, di Tsipras di fare una proposta ai creditori, palesemente inaccettabile, infatti non accettata, però lasciando aperta la porta del dialogo, fatto che tiene il governo ellenico sulla corda. A Berlino, a Bruxelles, a Francoforte, in tutte le capitali europee i governi lo sanno, il primo ministro greco non è più in grado di mediare. O cede alle pressioni europee e accetta un compromesso, oppure va allo scontro sul referendum di domenica prossima con buone chance di perderlo. Questo è un po' quello che infatti il manifesto sottolinea come una sorta di roulette greca, mettendo anche la foto di Angela Merkel, ma sullo sfondo c'è anche Tsipras in uno degli incontri recenti internazionali. Il ministro degli esteri tedesco, Steinmeier, parla in maniera molto dura, lo fa con il quotidiano Die Welt, ma l'intervista la potete leggere in italiano su Repubblica, pagina 3, e dice: è incredibile. E durante lunghi anni di crisi l'Unione Europea nel suo complesso ha sostenuto la Grecia con ingenti crediti. C'è da rimanere sconcertati davanti ai comportamenti incongrui del governo greco in questi ultimi giorni e ore. Con impegno e grandissimi sforzi, dando prova di molta buona volontà, l'Eurogruppo, l'istituzione, avevano trovato un compromesso che avrebbe assicurato alla Grecia la possibilità di guardare normalmente in avanti. Noi non possiamo fare però il lavoro del governo greco, che è responsabile delle sorti del suo popolo e non dovrebbe continuare a nutrire illusioni. Vabbè, questa, direte voi, è la versione tedesca, la versione dell'austerità, la versione del non cedere di un millimetro, la versione di Angela Merkel. Angela Merkel che oggi si vedrà con Renzi. Renzi va a Berlino, per la verità l'incontro bilaterale era fissato da tempo, ma di che cosa si parlerà secondo voi? Si parlerà di questo, anche perché La Stampa con Fabio Martini, e questa è la retroscena più interessante, racconta che ieri Renzi ha telefonato a Tsipras. Ultima telefonata ad Alexis, attento, stavolta fanno sul serio. Pagina 6 della Stampa, Fabio Martini racconta di come ieri Renzi abbia alzato il telefono chiamando Alexis: fratello, guarda che stavolta potrebbero tirare dritto, se si va avanti muro contro muro finisce comunque male per la Grecia. E l'altro, Tsipras, risponde così: non posso svendere il mio paese, non posso tradire il mio popolo. A quel punto Renzi consiglia: a questo punto la partita è diventata prevalentemente politica, devi dare un segnale, fare un passo, e poi dialoghiamo fino all'ultimo minuto utile, lo dirò domani alla Merkel. Ecco allora che vedete oggi Renzi di questo parlerà con Angela Merkel. Renzi va a Berlino e Grillo invece sarà ad Atene. Il Corriere della Sera racconta con Monica Guerzoni che se Renzi oggi va a Berlino, con questo bilaterale fissato da tempo si parlerà di questo, invece domenica e lunedì sarà in piazza Sintagma Beppe Grillo per gridare potere al popolo e non alle banche, annunciare un analogo referendum sull'euro da sottoporre agli italiani, così scrive il Corriere. Di tutti questi temi e non solo parla anche Salvini. Salvini sapete che fa una serie di interviste dietro l'altra, ma per questa volta il merito di Salvini, che parla al Sole 24 Ore a Fabrizio Forché, è parlare per la prima volta di questioni prettamente economiche, perché in qualche modo Salvini si proietta nel 2016, quando sostiene lui si andrà a votare, si proietta in un ipotetico governo con lui premier e in qualche modo discute tutte le questioni economiche che vorrebbe affrontare. Allora, intanto, parlando della Grecia, dice Salvini: da cittadino italiano spero che si arrivi a un'intesa, che la Grecia non salti, ma qui ci sono due torti che si confrontano, il torto europeo, perché non si può portare mezzo continente alla fame, e un torto della Grecia, perché ha speso quello che non aveva, ha truccato i conti, ha promesso con Tsipras l'impromettibile. Ora serve buonsenso. Voi, chiede Forché a Salvini, tra le vostre proposte avete l'uscita dall'euro. Guardi, ci sono ancora molte cose da fare. Questa moneta però non funziona, non è una battaglia di Salvini, è un esperimento fallito. Ma dico che l'uscita unilaterale dell'Italia sarebbe un casino. Noi stiamo valutando diverse soluzioni, dall'euro a due velocità, l'introduzione di monete per aree più omogenee. Comunque non l'uscita unilaterale. E voi violereste al governo la regola del 3%? Quel vincolo va sicuramente superato. Ci sta ammazzando, risponde Salvini. Nelle casse dei comuni lombardi ci sono avanzi di bilancio per 7 miliardi che si potrebbero spendere da domani. E poi dice ancora: via il vincolo del pareggio in bilancio in Costituzione, che Salvini definisce una fesseria. Via la legge Fornero, legge indegna, iniqua e irrispettosa che ha violato i diritti acquisiti. Ci sono 50.000 esodati senza risposta. E Forché dice va bene, lei dice questo, ma voi dovete confrontare coi numeri, i limiti del bilancio, l'onere del governare. E risponde Salvini: guardi, io non dico che i soldi li trovi sotto l'albero, non dico cavolate alla Grillo che parla di togliere le spese militari o roba del genere. Ma se per esempio togli vincoli alla spesa del contante, se intervieni sull'IVA che oggi viene anticipata dalle imprese, se togli lacci e lacciuole all'economia, se abbatti i vincoli europei, questo paese è in grado di produrre le risorse che ti servono. Poi vabbè, parla anche di altre cose, dicendo della scuola, dei progetti che avrebbe Salvini in caso di governo. Oggi Iena, non propriamente una persona di destra, è stato anche Riccardo Barenghi, direttore del Manifesto, sulla Stampa la mette così: perché la sinistra europea non è insorta quando la Merkel ha silurato Berlusconi? Oh, vorrei andare a Berlusconi, alle ultime sue vicissitudini, ma prima c'è il nostro Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Tra la Merkel, Berlusconi, le vicissitudini di Berlusconi, Ruby. Sì, stavi sfiorando un processo comunque, in ogni caso, perché questo devi dire, diciamolo. Comunque, vabbè. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, hai seguito ieri il forum sul 7.30? Tutto. Sai che incombe, bravissimo, però se per caso ti fosse sfuggito qualcosa, spiritosone, sì. Sappi che sul sito del Sole 24 Ore c'è tutto. Puoi ancora riascoltarlo, ma è per quello. Trovi anche due pagine oggi sul Sole 24 Ore che ti spiegano un po' le cose che sono state chiarite ieri. Ad esempio, ricordati che se ti affidi a un intermediario, poi la delega va rinnovata ogni anno, non è che vale per la vita, è uno dei chiarimenti che sono arrivati ieri. Ma oggi ti vorrei parlare di lavoro, perché non ce n'è tantissimo, a dire la verità. Cioè, la prima cosa che ti voglio dire è: guarda il dato sugli occupati, sì. Non è andato benissimo, c'è un calo, e anche se la disoccupazione come tasso complessivo è rimasta stabile, diciamo che questo non è una gran notizia. E poi ci sono dei dati un po' da 0, nell'economia. I prezzi più 0,1, la produzione più 0, industriale più 0,2, insomma. Vabbè. Leggi le pagine del territorio, perché tu adesso vai sempre a norme e tributi, vero, e non mi guardi, è importante, se vuoi capire veramente come stanno andando le cose devi leggere anche le pagine del territorio, non c'è niente da fare. Poi ti voglio dire, tra l'altro, a proposito di lavoro, incombe anche la disdetta per il contratto dei dirigenti del credito, e anche quello lo puoi leggere nelle pagine di Impresa e Territori. E infine, per parlare di lavoro, oggi con il Sole 24 Ore ti diamo un focus di 16 pagine dedicato alle ultime novità del Jobs Act. Sai che stiamo completando la riforma del lavoro, come hai no? sentito dire? Ma sì, ti ho detto anche Angelino. Esatto. Ecco, scusate. Stiamo completando la riforma del lavoro e abbiamo 16 pagine che ti spiegano a che punto siamo e come sono le regole. E oggi è un giorno importante sempre per il lavoro. Guarda, oggi come ti ho legato tutti i temi. Tutti. Perché parte il DURC online. Ah, il DURC. È inutile che tu faccia il sarcastico. No, invece è una cosa. Mi sono messo la cravatta oggi. Mettiti scherzi. In ordine perché parte il DURC online. Hai fatto bene a metterti la cravatta. Me ne compiaccio. E poi è una cosa importante che dovrebbe garantire anche una maggiore celerità nel trattamento appunto di questo documento di regolarità contributiva, che peraltro è fondamentale per tutta una serie di aspetti. Vi spieghiamo tutto nelle pagine, questa volta sì, di norme e tributi. Bene. E tutto ciò premesso, caro Alessandro, cari ascoltatori, traffico! Alessandro Mila, l'insonne dell'informazione. L'insonne, va bene. Allora, dicevamo delle ultime vicissitudini di Berlusconi, che sapete è stato assolto poi per la questione della prostituzione minorile in via definitiva, ma ora i giudici vogliono vedere chiaro sui soldi che Berlusconi avrebbe pagato alle cosiddette olgettine, a Ruby e alle altre 10 milioni. E quindi i magistrati dicono: Berlusconi va processato per questo. perché leggo da Repubblica, pagina 12 e 13, ma tutti i giornali dedicano almeno una pagina a questo, per comprare il silenzio delle testimoni Silvio Berlusconi non ha badato a spese, questa è l'accusa, per impedire insomma che in un'aula di giustizia si scoprisse cosa nascondessero le cene eleganti organizzate quando l'ex cavaliere sedeva sulla poltrona di premier, sono stati spesi 10 milioni di euro. Qualcuno come Ioana, il cui cognome non mi azzardo a leggere, Amargiolalei, modella di origine rumena, più o meno questo è il cognome, sono bastati 88.000 euro. Ma quella che avrebbe preso di più sarebbe proprio lei, Ruby, 7 milioni di euro, 7 milioni. Peter Bescapè ha fatto una faccia, quasi quasi dice mi metto una maschera da Ruby a un perizoma, 7 milioni. Di euro. Berlusconi ha dato 7 milioni a Ruby, questo è il titolo anche di Libero a pagina 9. Me lo vedo l'alpino nelle cene eleganti, vestito e agghindato con paillette, eh? Un po' alla Ruby, va bene, va bene. Bravo alpino. Allora, vicissitudini politiche però anche per governatori del PD, eh? Di Chiamparino abbiamo detto ormai ogni giorno non manca articolo su un giornale che racconta di come ci sia questo pronunciamento del TAR in agguato il 9 luglio che deve pronunciarsi sulle firme raccolte dal PD in campagna elettorale per le elezioni di Chiamparino. Potrebbe arrivare anche una decisione di far decadere il presidente della regione Piemonte per raccolta di firme non secondo la legge in campagna elettorale. Ma un altro che rischia molto, si vocifera giorno dopo giorno, è Crocetta. Perché dopo l'arresto del medico considerato vicino a lui, e lui dice sì, vabbè, certo, è un bravo medico, mi ha guarito dal diabete, mi ha fatto dimagrire, se l'hanno arrestato io cosa c'entro? Vorrà dire che farò istanza al CSM per farmi assegnare il prossimo medico direttamente dai magistrati. Un po' tra l'ironia e no, Crocetta ha commentato così, in realtà ha aggiunto c'è poco da scherzare, mi rendo conto, anche perché Lucia Borsellino, che è la figlia del magistrato Paolo Borsellino, nonché assessore alla sanità della regione Sicilia, sarebbe pronta a dimettersi. Così raccontano i giornali proprio per questa vicenda. Inchieste, dimissioni, caos Sicilia, Crocetta perde anche Borsellino, che si sarebbe data 48 ore di tempo per formalizzare le dimissioni dopo la bufera che ha investito il medico personale del governatore, il professor Matteo Tutino. E quindi Crocetta, secondo Repubblica, tra l'altro fa i conti, ha perso già 35 assessori in 31 mesi. Beh, ricordate i casi anche di Franco Battiato, passò lì, Antonino Zichichi, oppure Nelly Scilabra viene anche ricordata, ma insomma tante persone, tanti assessori, uno ogni 26 giorni, racconta Emanuele Lauria a pagina 15 di Repubblica, è la media di un cambio di assessore. Ogni 26 giorni, è aggiunta Crocetta. Ora si dimette anche la responsabile della sanità, Lucia Borsellino. La giunta è nel caos, giura anche Repubblica. Va bene, questo per quel che riguarda la politica. Oh, la cronaca ci affida qualcosa di terribile, quello che è successo a Roma, dove raccontano tutti i giornali, è stata violentata una ragazzina di 16 anni, tra l'altro in pieno centro, nel quartiere Prati. Roma stuprata, 16 anni in centro, è il titolo a tutta pagina del Messaggero a pagina 15, ma anche il Corriere della Sera, sono un poliziotto, seguimi, e così avviene lo stupro della quindicenne a Roma. È iniziato così, racconta il Messaggero, c'erano due ragazzine che camminavano e Maria Lombardi e Paola Vuolo raccontano questa terribile cronaca. Siete troppo piccole per bere, quanti anni avete? Sono un poliziotto, fatemi vedere i documenti. L'uomo mostra un tesserino fasullo che nell'oscurità si vede appena, erano le 22, e le tre sedicenni che camminavano e passeggiavano per Prati cominciano a tremare col bicchiere di plastica in mano. Solo una di loro ha la carta con foto e data di nascita. Vieni con me, ti devo identificare. E la porta in una stradina senza uscita alle spalle del tribunale a Piazzale Clodio, facendo finta di accompagnarla in commissariato. La trascina in un piccolo parco abbandonato lì accanto e così la violenta. precipita così nel buio, in un dolore senza ritorno, una serata cominciata con l'incanto dei fuochi d'artificio a Castel Sant'Angelo, giochi di luce riflessi sul Tevere. Piangono ora tutte e tre, tornando a casa, abbracciano colei che è stata vittima di questa violenza, le asciugano il viso con le mani già bagnate di lacrime. Una violenza sulla quale si è innescata anche una polemica politica inevitabile sulla sicurezza, sulla mancanza di sicurezza in questi casi. Rimane il racconto di una cronaca terribile per questa sedicenne. Ci sono anche, se volete, tutte le polemiche per venire alla questione di cronaca legata all'economia, al lavoro, del blocco da parte della Corte, da parte di un tribunale, da parte di un giudice di Monfalcone e del sito Fincantieri, che ha bloccato la produzione e anche gli stabilimenti dove lavorano 4.500 addetti tra dipendenti diretti e indotto. La Cassazione chiude Monfalcone, questo è su Imprese e Territori, come ci ha detto Mauro Meazza, ma anche impianto sequestrato si blocca Fincantieri anche sul Messaggero, insomma un'altra situazione simile a quella dell'Ilva, che però non abbiamo il tempo di approfondire, anche perché in diretta su Periscope siamo al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali. Come sempre a mio insindacabile giudizio, e tra l'altro teniamo la classifica aggiornata sul profilo Twitter mio, Alino Milan, che potete andare a vedere, per ora in testa al Corriere della Sera, ma oggi vince Libero, che dedica mezza pagina. Fammi vedere un po', Lorenzo che mi sta riprendendo, come hai tu i calzini corti, calzini lunghi? Non ha calzini. Io posso farli vedere su Periscopo, ho i calzini lunghi, ce li ho lunghi, mezza pagina su Libero, sulla rivalutazione del calzino corto bianco, ma vi rendete conto, il calzino corto bianco anche sulle monde, il calzino corto bianco non fa più tedesco in vacanza, adesso il calzino corto bianco è fico. Ma chi se ne frega!